non salta astensioni sta bene. Salta! Chi non salta astensioni sta bene. Scusatemi se non sono sulla lista, se non salto con il bandierone al vento. Ma purtroppo c'è che a fare l'idealista, mi sono ritrovato le scarpe di cemento. Chi non salta astensioni sta bene. Salta! Chi non salta astensioni sta bene. Con la faccia di Giletti, Fazio e Vespa, spiegatemi perché dovrei abbonarmi alla Rai. Ho tanta nostalgia di un vero giornalista, si trovano in compenso più cazzari che operai. Pur di non servirmi il bla bla bla del fancazzista, mi farei l'abbonamento alla Champions League. È inutile che ammicchi, tanto sono astensionista. Le ultime elezioni ha dato il voto a Peppa Pig. Nel campionato di fatta politica ogni giorno sembra un derby. Si scalda la curva anche se è sempre più stitica. Scende in campo la tribù dei culi fermi. Di giorno continue litigate da paura. Per tenerli separati ci vuole un'altra rete. Danno il meglio dando il peggio con estrema cura. Che non si senta trascurato il funzionario, il prete. Chi non salta astensioni sta bene. Salta! Chi non salta astensioni sta bene. Ma quanti pallonari, bidoni, populisti alla propria bandiera fedeli servitori, che cambiano casacca ogni campagna acquisti pur di restare eternamente titolari. Fanno i giocatori, allenatori, arbitri ignoranti. Stringi mani, bacia guance sempre accollottato. Assegnano i rigori inciampando sui contanti. Si mostrano per quel che sono, solo a babbo morto. Nel campionato di fantapolitica ogni giorno sembra un derby. Si scalda la curva anche se è sempre più stitica. Scende in campo la tribù dei culi fermi. Occhio in camera d'attori consumati. La loro priorità alzare il gradimento. Denari, squillo e coca finché non sono beccati. Ed eccoli pentiti appena usciti da un convento. Chi non salta astensioni sta salta! Chi non salta astensioni sta no, io non salto più.